Imparo lo Zohar con Rabbi Michael ben Pesach Portnar. Parte prima, Baderek el Asulam sulla via per la scala. Lezione numero 8. Domanda di uno dei partecipanti al corso a seguito di questa lezione. Se AK, Adam Kadmon, è stato il primo uomo, chi sarà l'ultimo? Risposta: l'ultima persona sarà Hashem stesso, dopo la rinascita del Messia, quando tutte le correzioni dell'intera umanità saranno completate. Dopodiché ci sarà una serie di trasformazioni, fuori dove la creazione e l'essere umano saranno completamente rinnovati, perché la morte non esisterà più allora. Questa è una parte della Kabbalah che appartiene alla parte segreta della Torah e non sarà istruita. Ogni individuo la riceverà dall'alto quando sarà pronto. In questa lezione andremo oltre il secondo paragrafo Ot Bet dello Zohar, ma prima di continuare devo dare una sorta di introduzione, una sorta di conoscenza, esperienza. Ne abbiamo bisogno prima di iniziare con la prossima Ot. Se dovesse essere da me stesso, continuerei il programma e andrei oltre con Ot Bet, ma nello spirituale è diverso. Ieri sono andato a letto, ma non riuscivo a dormire, mi sentivo completamente riposato, pieno e completo. Non era un sogno o una visione, ma spirituale. Mi appare l'immagine completa di quello che devo fare questa sera. Ora comincio cercando di spiegare qualcosa stasera che non ho potuto risolvere per molti anni per me stesso. Perché se avessi bisogno di così tanti anni e non potendo capire, e non dico di comprenderlo ora, ma il quadro è diventato più chiaro per me e chiarirà molto. Quello che abbiamo fatto negli ultimi 2 anni sarà per un nuovo arrivato al corso che va molto veloce. Quello che ho visto ieri non era un'immagine o qualcosa del genere, non era nuovo, ma l'ho ricevuto in un modo molto chiaro. Nel mondo intero non ho visto quello che voglio dirti stasera. Né in Zohar lo puoi trovare nella forma che voglio dartelo. Lo Zohar è dato per l'eternità e te lo darò in un modo che è specifico per questa generazione, affinché possa aiutare tutti noi. Se dovessimo continuare ora con la Ot Bet, arriveranno più variabili e non potremmo digerirla. Ecco perché te lo sto chiedendo, per favore, silenzio, e avere l'intenzione anche interiormente, poiché non viene da me e può spostarsi all'istante se non c'è cooperazione. Non sono il capo. Esso ovviamente è stato intagliato in me e non sparirà mai per dirtelo. Ho intenzione di provare, ma se funziona non lo so. Ogni cosa ha a che fare con lo Zohar ed è palese che ho preso la responsabilità. È stato dato a me ed è per questo che mi è stato rivelato. Forse senza di te non l'avrei ricevuto. Ora siamo nel tempo di Sukkot, festa dei tabernacoli. Non voglio parlare di questo. In basso puoi trovare un articolo dallo Zohar, capitolo Noach, paragrafo 97. Correlato a Sukkot e ai 4 tipi di piante usate da ciascun ebreo. Sukkot e Arba Minim, dallo Zohar, Noach 97. Sukkot, festa dei tabernacoli, sta nel segno del potere che ha il nome Avaya sulle forze impure, che mascherano la luce del Creatore nei mondi inferiori, e non andranno d'accordo con il suo alto comando. Non viene nulla dall'alto se non evochiamo qui sotto. Quando il dominio di questo nome sorgerà, le forze del male si indeboliranno e alla fine scompariranno. L'ebreo, come un ambasciatore del Creatore, si presenta in questi giorni con il santo nome di 4 lettere. Il nome che è in accordo con Arba Minim, i quattro tipi di piante del lulav. 1. Hassadim, ramo della mirra, 3 pezzi. Questi sono Ka, Ga, Ti, della lettera Yud del nome di Avaya. 2. Aravim, ramo del salice, 2 pezzi. Questi sono Netzach e Od, che attira la prima Hei del nome di 4 lettere. 3. Lulav, ramo della palma, 1 pezzo. Questo è Yesod, la lettera Vav del nome di Avaya. 4. Etrog, frutto di agrume, 1 pezzo. Questo è Malkut, la seconda Ei del nome di 4 lettere Avaya. Tutti insieme rappresentano i 7 campi di forze del sistema operativo dell'universo, Zeiranpin e Malkut. Con questi Arba Minim si cerca di essere favorevole a Avaya, per portare se stessi in accordo con le sue qualità, e lasciare la forza del suo santo nome Avaya regni sulle forze impure inferiori. Attraverso questo un ebreo desta allo stesso tempo le acque sante, Mahim Kedoshim. Questo significa il discendere su di lui dell'alta luce, le benedizioni, e attraverso questo verserà le acque sull'altare che è Malkut. Questo è il motivo per lasciare che le acque si riversano in abbondanza sull'altare, che è ancora fatto in Israel. Con questo mina le acque maligne, Mahim Azeidonim. I rami e gli agrumi insieme sono chiamati Lulav. Ogni cosa giunge alla Nukva, la Malkut, da Yesod, l'ultima sfira di Zeiranpin, la forza maschile che dà a lei. Yesod è anche Brit Kodesh, Brit Milach, il quale è l'unione tra il Creatore e Israel, o cielo e terra, tra l'inferiore e il superiore. Riceve in sé ogni cosa che viene da sopra, da Binah, e lo dà attraverso Malkut, la terra e il principio femminile. E da Malkut l'Azilut va inoltre alle anime dell'uomo. Ogni ebreo deve comprare un set lulav per se stesso e qualcuno del corso lo porterà con sé. Io non lo compro più perché non mi lascio guidare attraverso l'apparenza esteriore della religione. Ovviamente mangio kosher e quel genere di cose e amo il Creatore, ma non la religione. Per ognuno di noi viene a modo proprio. Un set lulav è 6 più 1, 7 sfirot, il sistema operativo dell'universo. Quando imparerai lo spirituale, da un lato penetrerai nei segreti dell'universo ed è una buona qualità per ricercare e approfondire. Proprio come Mosè, anche lui voleva sapere esattamente come funzionava l'universo. Devi avere modestia e d'altra parte devi essere esigente per il bene del Creatore, vuoi penetrare e non per te stesso. Lo stai facendo questo per servire. Più conosci l'esperienza spirituale, più puoi attrarlo a te e correggere te stesso e il mondo intero da te e non dallo spirito di un gruppo, perché nessun bene viene dallo spirito di gruppo sebbene sembri diverso. Devi lavorare in un modo assolutamente individuale, questo è ciò che il Creatore alla fine vuole da noi. Ma devi essere pronto per questo. Le più grandi benedizioni nel nostro mondo sono ricevute in piccole stanze, senza persone, senza confusione, senza piangere o urlare. Pronunciamo il nome di Avaya e questo nome eterno del Creatore che possiamo trovare ovunque. In ogni religione pronunciano questo nome di 4 lettere. Ho provato a penetrare questo nome. Volevo sapere cosa significasse tutto. Chi sei tu come persona per farlo? Il Creatore desidera ardentemente che lo facciamo, che conosceremo Lui. Perché il nome di 4 lettere è sacro? Da dove viene questo nome? Io volevo sapere così potevo portarmi più in armonia con l'Eterno. Non potevo avvicinarmi all'Eterno, non potevo vedere da dove ogni cosa fosse venuta, e non potevo vedere come fosse nato questo nome che sempre avevo cercato. Questo nome è il nome dell'Eterno Creatore, nella sua qualità di misericordia. Noi sperimentiamo la misericordia solo quando abbiamo 10 Sfirot. Ari ci ha detto di non parlare di Adam Kadmon, è così rarefatto. Sarebbe una filosofia parlarne. Non è permesso parlare di cose che non sperimentiamo. Quello è Adam Kadmon, il primo mondo. Voglio mostrarti un po' in modo che tu possa sentire da dove proviene tutto, senza alcuna logica, ma più in alto. Non ci è permesso parlare di Adam Kadmon e ora voglio che ti dica qualcosa il quale è anche più superiore. Chi sono io per farlo? Ma ieri ho ottenuto il permesso perché ci aiuta. Ho ottenuto la conformazione per farlo. Per farlo devo chiedere il permesso a un rabbino, qualcuno che è di carne e ossa. Ottieni il permesso se puoi farlo, esso non ha niente a che fare con me. Da Ein Sof, dove non c'era assolutamente nulla, venne sotto a noi. Non cercare di capire, non con la logica o altro, puoi farlo in seguito. L'etrog, una specie di agrume, è la Malkut. È importante che lo stelo sia ancora lì, perché altrimenti non sarebbe kosher. Non spetta a me spiegare ora. Il lulav, il ramo di una palma, è yesod, perché alla fine ogni cosa da sopra va in yesod. Corrisponde nell'uomo con il posto degli organi di riproduzione, ovviamente non l'organo, ciò che è tra le gambe, ma la forza che è lì dentro. Yesod porta ogni cosa da sopra a sotto, alla Malkut. L'etrog è la Malkut. Tieni l'etrog sul lato inferiore del lulav ed è come se l'uomo entrasse nella donna. Tutti i rami insieme sono i 6 sfirot di Zeirampin. I rami degli alberi della mirra sta per Kesed, Gvura e Tiferet, le emanazioni superiori dell'albero di Zeirampin. Questi rami hanno poca fragranza, l'etrog ha gusto e fragranza perché quello è la Malkut e la Malkut è lo scopo dell'intera creazione. Ogni cosa viene da sopra alla Malkut. Usiamo 2 rami del salice e quelli stanno per Netzach e Od. I rami di salice non hanno né gusto né profumo. Il ramo della palma è Yesod. Questo dà un totale di 6 sfirot. E sotto di loro c'è la Nukva, la Malkut. E quando ogni cosa è data alla Nukva, lei diventa la Malkut di Knesset Israel, raccolta di Israel. Zohar ci sta dicendo che il Set Lulav è Israel, come forza. Ogni cosa che va da Israel, da Zeirampin alla Malkut, è chiamato Knesset Israel, perché raccoglie ogni cosa che è dato da Zeirampin a Malkut. Solo scuotendo con il lulav, scrollarsi di dosso la terra, solo perché è tradizione, non è il mio modo. Faccio qualcosa solo quando sperimento lo spirituale, che sento la forza e che mi dà vita. Si scuote il lulav in 6 direzioni, i 4 lati del mondo, sopra e sotto, e insieme sono i 6 lati di Zeirampin. La creazione ha qualità di 6 dimensioni. Sopra è ancora nel germe, e il 7° è la Malkut. E il 7 è la Malkut. Ora ti racconterò una pratica ebraica religiosa o tradizione, ma parlerò solo di queste cose che saranno di qualche aiuto. Ecco perché voglio parlarti un po' di Sukkot, la festa dei tabernacoli. Sukkot dura 8 giorni. I primi 7 giorni gli ebrei portarono sacrifici nel Tempio. Quello era in passato, ora muoviamo le labbra dicendo preghiere, ma sono esattamente le stesse preghiere che erano allora all'inizio del servizio nel Tempio. Nell'Eterno niente chance. In quei 7 giorni furono sacrificati 70 tori. 70 tori per i 70 popoli naturali. Il mondo esiste su 70 nazioni. Vecchio Testamento, naturalmente, nel VN naturalmente si trovano più nazioni, ma nelle radici ci sono 70 nazioni e il popolo di Israele spirituale non è legato a un paese o cultura, ma nell'Eterno. Tutti questi 7 giorni, non una parola sarà detta sull'ebreo stesso. I giudei dicono che le loro benedizioni per tutte le altre nazioni. Non che essi siano così buoni, ma è un regolamento dall'alto. Devono farlo in questo modo. E solo l'ottavo giorno possono portare sacrifici, vale a dire portare tutte le benedizioni per le 70 nazioni del mondo qui sulla terra. Vediamo solo ciò che è materiale. Non vediamo tutte le benedizioni che vengono sulla terra in questi giorni per tutte le nazioni. All'ottavo giorno, Shimimi Atzeret, l'ebreo può alla fine chiedere per se stesso. In questo modo il Creatore impara il suo popolo come deve comportarsi con lo spirituale. Quindi all'ultimo giorno possono venire faccia a faccia, rendere pubblico al Creatore. Questo è per ora Sukkot. Quello che voglio dirti ora deve essere detto in questa generazione. Non io, ma devo dirtelo, non è stato mai detto prima in nessun gruppo da nessuna parte. Ora parleremo del tempo molto prima dell'esistenza dei mondi, del primo grado da cui proviene tutto. Era sempre vietato parlare di questo, nessuno ha mai avuto il giusto sentimento, la preconoscenza di fare così. Era assolutamente impossibile. È scritto anche nel Talmud che è proibito parlare dell'atto di creazione, Maase Breshit, con qualcuno, più in alto di quanto lo spirito possa raggiungere, devo dirvelo. Spero di riuscirci perché non è nelle mie mani. Abbiamo detto prima che ogni cosa era vuoto, c'era solo luce. Ogni cosa era perfetta e riempita con la luce dell'eternità, che era anche superiore. Era l'essenza del Creatore e quello è assolutamente da non penetrare. Da questa essenza viene l'Ein Sof, la luce dell'eternità. È venuto nel pensiero della luce dell'eternità per creare una creazione. Ora andiamo a vedere come questo si è sviluppato. Nello Zohar parliamo costantemente di Avaya, il nome del Creatore misericordioso, che è il nome rivelato per la prima volta a Mosè. Vedremo che ogni essere umano, ogni giorno e in ogni situazione può evocare questo nome. Il significato di Sukkot è di evocare la volontà di Avaya. Con il Lulav, così da sopra, possono venire le acque della misericordia, la luce, la benedizione di riversarle su di noi. E quello avviene a ogni nazione, nel mondo intero, a ogni cosa che vive. Questo nome corregge l'intera creazione e rompe la resistenza di ogni cosa che collabora, dei malfattori che si nutrono con le forze impure. E alla fine, come causa di questo sviluppo dell'umanità, dopo 6.000 anni, tutte le forze impure saranno illuminate da questo nome di 4 lettere, Avaya. Non c'è niente di più superiore, più eterno di questo nome, Avaya. Elohim è anche un nome del Creatore. Non è che il Creatore abbia nomi che sono perfetti di imperfetto. Ogni cosa viene visto dal nostro punto di vista. C'è forza con il nome Elohim e significa severità, il quale è anche necessario. Ma quando ci correggiamo, la forza del nome di Avaya, Yud Kei Vav Kei, l'eterno nome del Creatore, brilla su di noi. Se evochi questo nome e puoi sentire questo nome, si sperimenta in quel momento nessun dolore. Il dolore è lì perché non siamo capaci di sperimentare questo nome eterno. Cercherò di raccontarti sul primo inizio, assolutamente con mani e piedi, per mostrarti come questo nome qui sotto è nato per noi, non per lui, solo per noi. È il momento giusto. Ari non poteva pronunciarlo perché nessuno lo capiva. Addirittura il più grande rabbino che era seduto accanto a lui non poteva capire. Yosef Karo era un grandissimo scienziato della Torah e dormiva durante le lezioni di Ari. Era così elevato. E l'intero mondo ebraico tradizionale impara dal libro Shulchan Aruch, scritto da Yosef Karo con tutte le leggi in esso contenute. Yosef Karo era uno studente di Ari ed essi imparano da lui e non da Ari. Ovviamente Yosef Karo era un uomo divino, ma solo in questo mondo non poteva sopportare la forza di Ari quando insegnava. Sentiva sonno e alcune persone si sentivano di svenire perché era così elevato. Più impariamo, più andiamo più in alto e andiamo in basso e andiamo da tutti i lati. Enormi punti di forza saranno risvegliati in noi. Il tempo è qui, è pronto. Yosef Karo, la più grande persona che aveva elaborato tutte le leggi per ogni generazione, lui non poteva gestire. E sapeva che Ari era un uomo divino, ma lui non poteva gestirlo. Non perché fosse forte nella sua saggezza divina, ma attraverso il suo intelletto, la sua forza umana. E Ari l'ha portata da sopra a sotto. Voglio provare a fare lo stesso. Non cercare di capire con la tua testa. Quando il creatore era ancora nella sua essenza, non c'è nulla da comprendere. Dopodiché è venuto l'Ein Sof. Prima c'era la sua essenza. Nessun bambino potrà mai capire l'essenza di suo padre o sua madre. Lui può solo capire l'esterno da sua madre. Lei fa panini molto gustosi. Ein Sof significa nessun fine. I cabalisti danno solo nomi a qualcosa che possono comprendere quando c'è un accordo interiore. E nell'Ein Sof qualcosa venne dalla sua essenza. Dell'essenza del re del mondo non possiamo sapere nulla, assolutamente niente, ma possiamo guardare oltre ciò che è possibile per noi di sperimentare da lui perché dobbiamo portarci in accordo, in armonia con le sue leggi dell'universo. Quindi da Ein Sof possiamo sperimentare un po'. Ein Sof fu il primo che uscì dalla sua essenza e quando uscì era tutto bianco, come un foglio di carta vuoto. Ogni cosa era piena di luce e non c'era un posto che fosse imperfetto. Tutto questo stava accadendo prima che la creazione fosse creata, prima che la Torah iniziasse. Nel Talmud è scritto che è vietato a due uomini parlare dell'inizio, il primo passo dalla creazione, come è scritto nella Torah. Nel principio il creatore creò. È proibito parlare di questo e io vado addirittura più in alto, io devo dirlo qui. Ein Sof era pieno di luce e poi venne nel pensiero, nel piano di Ein Sof di creare la creazione. Il nostro compito è guardare da dove viene il nome Yud Kei Vav Kei. Prima doveva esserci un posto vacante di luce dove la creazione potesse venire. La creazione è già un tipo di grossolanità, qualcosa che non appartiene a Ein Sof. Come è possibile quello? Come può il finito venire dall'Eterno? Impossibile. Come è possibile tutto questo? Per un filosofo, attraverso la logica del nostro mondo, è assolutamente impossibile da capire. Impareremo dalla logica dell'Eterno se prima che fosse creato un posto per l'intera creazione. Dal momento in cui Ein Sof ha deciso di creare la creazione, Ein Sof fece in se stesso una sorta di intagli nella luce stessa. Intagli significa una mancanza di perfezione. Ecco perché non è bene per una persona fare tatuaggi, perché fa in se stesso intagli, imperfezioni. Ein Sof fece intagli in modo tale in se stesso che sembrasse dalla prospettiva dell'Ein Sof che era come Ein Sof, ma dalla prospettiva della futura creazione erano intagli. Devi vederlo in questo modo. Nella logica divina due opposti possono unirsi, qualcosa che è impossibile nel nostro mondo. Per quanto riguarda la prospettiva del creatore, l'Ein Sof è Ein Sof fino al nostro mondo. Ma per quanto riguarda noi, l'Ein Sof aveva fatto degli intagli. Come è possibile fare qualcosa senza una matrice? Disegno 8.1. I quattro stadi della formazione della luce Ein Sof. Ein Sof è luce. La luce subisce quattro fasi. Keter non sarà visto come uno stadio. Keter è come una copertura in cui sono incorporati i quattro punti di forza di Chokmah, Binah, Zeirampin e Malkut. Certi intagli furono fatti. Su un lato era Ein Sof, ma sull'altro c'è una differenziazione con Ein Sof. Entrambi sono uno, entrambi sono Ein Sof, e ciò corrisponde successivamente col Keter. Quindi venne il primo stadio, lo stadio di grossolanità della luce, prima che la creazione fosse creata. Non parliamo ancora di Sfirot. È impossibile dirlo, passo dopo passo, tutti voi sperimenterete e lo sentirete. Non pronuncio solo parole, ma cerco di portare sopra anche i punti di forza. Interiormente capirai, l'interno lo sentirà. Se provi a capire con l'esterno, sarà come una macina di mulino intorno al collo. Esiste un principio di Ari. Mi besari e chese Eloka. Dalla mia carne vedrò Hashem. Ciò significa che vedremo la manifestazione del superiore nell'inferiore. Abbiamo ogni cosa che è nel superiore e dall'inferiore possiamo vedere il superiore, come punti di forza che possiamo rintracciare. Fase 1 corrisponde con Chokmah e proprio come a Chokmah c'è un ricevimento, nella fase più prematura un piccolo intaglio in cui rimane ancora Ein Sof. Non c'è mancanza dall'intaglio, come mai? Chiedi al creatore di aiutarti a capire. Come è possibile avere il finito ed eternità insieme? Per quanto riguarda il superiore, c'è un'assoluta unità e visto dall'inferiore c'è un piccolo intaglio, grossolano. Fase 2 corrisponde con Binah, fase 3 con Zeirampin e fase 4 con Malkut. Keter è la corona, Chokmah è saggezza, Binah è comprensione, Zeirampin e Tiferet sono splendore. E Malkut è il regno dei cieli. Tutto questo è nella luce stessa. Yehuda Ashlag lo chiama i quattro stadi di Ein Sof. Noi lo chiamiamo i quattro stadi del mondo dell'eternità. L'Ein Sof fa in sé intagli nel lato che è rivolto alla creazione. Ogni cosa viene da sopra alla quarta fase, a Malkut, perché la fase 0 dà, la fase 1 riceve, fase 2 Binah dà una reazione perché lei non vuole ricevere. Fase 3 Zeirampin dà molto e riceve un po'. Malkut vuole solo ricevere. Questo insieme lo chiamiamo il mondo dell'eternità. Fin dalla prima fase, i quattro stadi della formazione di Ein Sof, in cui Ein Sof fa intagli in una certa fase, sono per il beneficio del mondo. Qui vediamo i quattro elementi che vedremo nel nome del Creatore, ma qui non si manifestano perché questo è il mondo dell'eternità, dove solo è Or Ein Sof. Lo stadio zero è la parte superiore della lettera Yud. Per capire la lettera puoi confrontarla con un foglio di carta bianco. La lettera è l'intaglio, non solo punti, ma anche lettere e combinazioni di lettere. Questo è un parallelo tra la scrittura su carta e la creazione di intagli nello spazio. Ora hai un piccolo senso del perché le lettere sono così importanti? Quando scriviamo su un foglio bianco con inchiostro nero, è analogo allo spazio dove solo la luce, come il foglio bianco e gli intagli sono nella luce, nello spazio, proprio come se fai incisioni con la penna sul foglio bianco. Il rotolo della Torah è scritto esattamente allo stesso modo. Ogni cosa che era è e deve essere creata è da trovare nella Torah. Proprio come gli intagli nella luce da sopra a sotto nel nostro mondo, così ci sono anche intagli nel rotolo della Torah. Anche la forma e la combinazione di lettere sono i nomi del Creatore. Il primo intaglio di Ein Sof a Ein Sof non è ancora un nome, è solo eternità e non c'è differenziazione, c'è solo l'esistenza della luce. Come puoi dare un nome quando non c'è niente? Dare un nome significa rendere grossolano, un'identificazione. Deve esserci qualcosa attraverso il quale ottieni un'osservazione di te stesso, un intaglio extra. Dare nomi è fare definizioni, ottenere qualcosa dalla massa. La venuta all'esistenza dei nomi del Creatore è da vedere nella fase zero. Il ricciolo superiore della lettera Yud sarà successivamente il Keter. Qui non parliamo ancora delle qualità delle Sfirot. Nelle Sfirot puoi vedere punti di forza specifici che non sono in questa fase. Yud è la fase 1, Hei è la fase 2, Vav è la fase 3 e la seconda Hei è la fase 4. Quindi, anche prima della creazione, vediamo già le forme del nome del Creatore. Yud, Hei, Vav, Hei. Questo nome non è ancora scolpito, ma è già lì nel germe. Attraverso queste quattro fasi ogni cosa nascerà. Ogni cosa è necessaria per arrivare a qualcosa per cui un nome può essere dato. Per dare un nome devono esserci quattro fasi e lo stadio zero, quindi in un modo cinque fasi. Lo stadio zero è il principio, non c'è ancora posto per la creazione. Gli intagli sono stati fatti nella luce stessa per il bene del quarto stadio, che non è ancora Malkut. Ogni cosa è creata prima della fase 4, che è l'Etrog. E così in Lulav ogni cosa è per l'Etrog che dà gusto e profumo. Anche la Malkut nel nostro mondo ha gusto e profumo. A volte sembra che il nostro mondo è anche grezzo e abbia molta severità, ma solo nel nostro mondo possiamo sperimentare il gusto di eternità lavorando su noi stessi. Da nessun'altra parte possiamo sperimentare questo, ricordalo. La religione dice che riceverai più tardi quando non sarai vivo, non è vero. Devi lavorare qui, altrimenti vedi solo la sofferenza e pensi che questo sia il nostro mondo. Naturalmente l'uomo comune trova consolazione nella religione, dà a loro riposo, e anche questo è buono. Gamzetov. Devi lavorare qui e non pensare che non importa come vivi la tua vita che dopo riceverai la ricompensa. La quarta fase ha ricevuto come risultato dai precedenti quattro intagli della luce, perché riceve solo la quarta fase. Come ha lei questa esperienza? Lei aveva già sperimentato il 4 in lei. Ogni stadio è più adulto del primo. Lo stadio 0 dà, ma solo nel germe. Il primo stadio riceve come un bambino. Il secondo stadio vuole dare, perché stadio 2 non vuole ricevere. Binah, lei guarda lo stadio 1 e vede già che lei ha ricevuto dallo stadio 0. Il secondo stadio fa la scelta per lo stadio zero, perché quello è superiore. Dare è superiore che ricevere. La fase terza ha ogni cosa in sé, il ricevere e il dare. La fase 4 riceve ogni cosa. Lo stadio 1 riceve senza voler nulla, ma lo stadio 4 ha già sperimentato la resistenza in se stesso. Tutti gli intagli della fase 2, che non vogliono ricevere, che hanno sperimentato in sé i punti di forza della fase 3, che dà molto e riceve un po', e ancora dice è meglio ricevere. Tutti loro vengono a fase 4 ed ecco la ricezione delle prime tre fasi in sé. La quarta fase, Malkut di Ein Sof, fa ora intagli da sé perché la quarta ha ricevuto ogni cosa dagli intagli della luce e ora lo stesso processo in lui. Nel potenziale è il prototipo della creazione futura. Nello stesso modo lo sta costruendo in se stesso. All'inizio ogni cosa è venuta dall'esterno al quarto stadio, ma ora viene tutto da lei e ora useremo la parola Malkut. Malkut è lo stadio 0, 1, 2, 3, 4 in se stessa. La luce di Malkut è il secondo intaglio della luce, dal momento in cui la luce si è ingrossata. All'inizio le quattro fasi si erano irruvidite da se stesse e poi giungono nell'inferiore, nella Malkut, e ci sono più pezzi grossolani. E tuttavia deve essere visto come Ein Sof. Da un lato puoi vederlo come grossolano e dall'altro entra senza il Masach, senza lo schermo. Non era necessario costruire uno schermo. Ogni cosa si è inserita in modo normale. Ovviamente in diverse gradazioni per quanto riguarda la Malkut, ma ogni cosa è ancora Ein Sof. Nel momento in cui la luce entra nella Malkut al quarto stadio, la luce diceva: qui dobbiamo smettere di considerare la grossolanità. Il posto è così grezzo qui, è pronto per la creazione. Così i quattro mondi esistono nella Malkut. Adam Kadmon è il primo ricevitore della luce. Non importa se non sperimenti nulla di cui stiamo parlando. Lentamente lo farai. Cosa disse il creatore a Mosè? Costruisci il Mishkan, il padiglione del luogo di incontro, nell'immagine proprio come l'avevi vista quando te lo dissi. Mosè vide il creatore? Ovviamente no. Quale creatore? Che tipo di immagine puoi vedere di lui? Lui è invisibile. E ancora lui mostra a Mosè un'immagine. E quello è ciò che sperimenterai anche tu. Quello che ho visto ieri è stato chiaro come il cristallo. Rimasi disteso diverse ore nel mio letto, sveglio, e potevo vedere nello spirituale. È incredibile, per ognuno di noi questo è possibile. L'unica cosa che devi fare è renderti ricettivo. Il nostro compito è stato quello di sapere chi è Yud Kei Vav Kei. Abbiamo visto il primo Yud Kei Vav Kei nella luce stessa e ora lo vediamo nella Malkut esattamente lo stesso. Malkut, stadio 0, 1, 2, 3, 4. Questi sono intagli più ruvidi della luce, ma è tutto rarefatto. Lo chiamiamo Ein Sof, ma ha tutti gli intagli necessari per le creazioni, come potrebbero altrimenti le creazioni poi assaggiare questi cinque sapori in questo modo. Attraverso gli intagli un posto vuoto origina, un luogo dove la creazione potrebbe essere creata. Nella fase 4, la Malkut, entrano quattro mondi. Prima Adam Kadmon e Ari disse su Adam Kadmon: non parlare di questo mondo, perché è parlare per parlare. Profezia su tutto ciò che c'è, è parlare senza connettersi con i nomi del creatore, ovvero è peccato. Vedi in quanti modi una persona può peccare ogni giorno? Prima Adam Kadmon entrò nel quarto stadio di Malkut e poi Briah, Yetzirah, Asiyah, e il luogo più ruvido nell'universo è il nostro mondo. Non esiste nulla di più ruvido nell'intero sistema solare. Siamo nel mezzo, nel centro epico assoluto della forma più grezza di materiale di tutte le galassie che esistono. Anche Marte, che è vicino a noi, è rarefatto. Ciò che è lontano nel sistema solare è più sottile fino al luogo che è assolutamente spirituale, dove trasferisce materiale nello spirituale. Il materiale non può mai venire lì. Nessuna navetta spaziale può penetrare questo spazio spirituale. Solo una persona, un essere umano, può farlo, seduto in una stanzetta sotto l'attico di casa sua. In un certo modo il materiale non funzionerà mai. Einstein lo aveva già visto nelle leggi della fisica. Il mondo Adam Kadmon, il primo mondo, è per noi il mondo zero, ed è in accordo con il ricciolo superiore della lettera Yud. Azilut è il mondo 1, questo è Kokma, che è l'intera lettera Yud. Bria è il mondo 2, è la prima Ei. Yetzirah è il mondo 3 e Vav. Assia è il mondo 4 della seconda Ei. Insieme essi sono intagli più ruvidi del nome Yud Kei Vav Kei, ma non sono ancora il nome Yud Kei Vav Kei stesso. Possiamo disegnare questi quattro mondi come cerchi, ma anche come avevamo fatto prima, per cui ogni mondo è uno sopra all'altro. Più basso è il più ruvido. Cerca un esempio il disegno 41 dell'anno scorso. E se si riflette come cerchi, si può vedere ciò che è interiore ed esterno, dal punto di vista della luce. Disegno 8.2. I quattro mondi sono disegnati da sopra sotto, e sotto di loro il nostro mondo più ruvido. Sotto Adam Kadmon è Tabur, e sotto il Tabur Azilut sta cominciando. Diciamo che ogni cosa viene dall'Azilut perché quella è saggezza. È il punto superiore della lettera Yud, lo Yud del nome del creatore. In Azilut troviamo Atik, Arich, Anpin, Abba e Ima, Zeirampin e Malkut, Zoen, e sotto Azilut ci sono i mondi di Bria, Yetzirah e Assia. Insieme formano il nome Yud Kei Vav Kei, come menzionato sopra. Devi solo vedere questo come generale, perché ogni mondo ha in sé anche questi nomi, poi solo come qualità principale di quel mondo specifico. Per noi Azilut è il mondo più importante, abbiamo detto, dove le lettere ancora non esistevano. Yud Kei Vav Kei erano intagli. Che cos'è il principio? Da dove vengono le lettere? Proprio come nel nostro mondo, quando scriviamo su un foglio di carta, possiamo trovare nel mondo spirituale Azilut, intagli chiamati lettere, perché ogni cosa proviene dall'Azilut. Ad Azilut non c'erano lettere. Ot significa lettera. Ot iot sono lettere. Non è Kelim che è la forma plurale di Kli. Kli è ciò che riceve luce. Le lettere sono grossolani completi, unità su carta che portano differenziazione. Ognuna di loro porta le proprie informazioni di significato. Ancora non ci sono Kelim in Adam Kadmon. Lì ogni cosa è molto sottile, e è così sottile che non c'è nulla da studiare. Questo è il motivo per cui Lari aveva detto di non parlare di Adam Kadmon. Non ci sono Kelim. Kelim o lettere è lo stesso, diciamo lettere su carta, per disegnare un parallelo con la luce. Quando la luce è completamente Ein Sof, è come una carta bianca o pergamena, nemmeno un singolo punto di essa. La seconda fase è il punto. Non è né una lettera né Ein Sof. In questo modo, da dove erano uscite le lettere, l'intero universo è controllato, dai luoghi vuoti su un foglio di carta con le lettere ebraiche. Le lettere ebraiche ci danno l'informazione della grossolanità della luce. Lì esiste qualcosa. Qualcosa esiste già dalla creazione. Questi posti bianchi, posti in cui non ci sono lettere sulla carta o sulla pergamena, sono come l'Ein Sof, riguardo alle lettere devono essere viste come luce. È solo creazione quando vediamo le lettere. Se la luce non è ancora grossolana, non ci sono lettere sulla carta. Questo significa che non ci sono state le quattro fasi. È lo stesso con i punti di forza nell'universo. Anche queste devono sottoporsi a queste quattro fasi. Tutto questo si deve vedere come un preludio a quello che voglio dirti. Tutto questo è necessario prima che possiamo arrivare al punto. Metà della nostra vita è finita e ora veniamo al punto, il motivo per cui stiamo vivendo. Solo un uomo molto grande e saggio può farlo molto prima, altri lo fanno dopo e non importa. Non c'erano ancora Kelim nell'Adam Kadmon, solo contorni ma non Kelim. La creazione non era ancora nata ed è per quello che Ari aveva detto non parlare di questo argomento. Il primo ad Azilut è Atik e questo significa prima, appartiene ad Adam Kadmon perché ci deve essere una situazione graduale. C'è sempre bisogno di un tipo di fase intermedia. Atik non è un Kelim. In Ari Kampin ci sono alcuni grossolani, Kelim, ma non sono veri Kelim. La luce è ancora molto sottile. Abba e Ima, padre e madre, quella è la forza che porta Zerampin e Nukva, da dove riceviamo tutta la luce, tutte le benedizioni. Quello che voglio dirti, Abba e Ima, A-V-I, ha 10 Sfirot o 5, ogni cosa ha 5. Le 7 Sfirot inferiori di Avi è il luogo in cui sono state formate le lettere. Da qui provengono i punti di forza che possiamo comprendere nell'universo. Solo le lettere o le combinazioni di lettere, frasi che possiamo comprendere. Lo stesso con i punti di forza, le 7 inferiori Sfirot dell'Avi. Questo possiamo capire, ossia ci sono lettere. Così le 7 inferiori Sfirot di Avi, di Binah, è lo stesso come Israel Saba Utevuna, Ish Suuti. In questo vediamo maschile e femminile. Spiegheremo questo più tardi. Ish Suuti. Possiamo comprenderlo a tutti i livelli. Ad Azilut, Briah, Yetzirah e Asiya. La stessa costruzione è in ogni cosa come in Atik, Arik, Kampin, Avi e Zon. Ora vediamo per la prima volta che c'è una comprensione possibile delle 7 inferiori Sfirot della Binah. Qui vediamo le lettere complete su un foglio di carta e nell'universo che sono già costruite in modo tale da capire. In Ari Kampin era già lì, ma nelle 7 inferiori Sfirot della Binah stava uscendo come un risultato. E c'è ancora Zon, Zerampin e Malkut. Sommario, 7 Sfirot della Binah, le 3 Sfirot superiori di Avi, non le includiamo. Non possiamo raggiungere 7 Sfirot inferiori della Binah, ma è possibile. Zerampin, Nukva. Nukva significa non è ancora sbocciata. In ogni parzuf, parzuf è 10 Sfirot, possiamo vedere questi 3 punti. Solo questi 3 sono di nostro interesse, hanno bisogno l'uno dell'altro. Malkut non può ricevere senza Zerampin. Insieme possono combinarsi ed essere elevati per sottoporsi a correzione. Ogni cosa riguarda questi 3 livelli. E sotto la Malkut ci sono le anime dell'uomo e ovviamente anche nel nostro mondo. Anche noi dobbiamo elevarci e portare tutti i punti di forza alla Malkut del mondo Azilut. Siamo la parte più bassa della Malkut. Siamo appesi alla Malkut allo stesso modo in cui abbiamo visto appesa la Malkut all'Olam Ein Sof. E se portiamo la nostra preghiera, le nostre mancanze alla Malkut, lei è proprio come una madre, anche lei ha la vocale Ei come a Binah. Quindi si sentì obbligata a mirare a Zerampin che ha 6, il motivo lo impareremo più tardi, e insieme vanno i 7 Sfirot della Binah. Essi salgono all'Avi e da lì vengono tutte le benedizioni. Questi 7 inferiori Sfirot della Binah sono da confrontare con il LULAV e con il YUDK-WAVK 7 per quanto riguarda l'intero Parzuf, per quanto riguarda se stesso è 10. Kesed, Gvura e Tiferet, Kagati, sono lo Yud come menzionato nell'articolo su Sukkot e le quattro specie di piante all'inizio di questa lezione. Anche qui vedi Yud Kei Vav Kei, questo nome del creatore, è da vedere in ogni cosa. Ogni sfira ha il nome del creatore in se stessa. Ogni cellula di un topo appena nato porta il materiale del Yud Kei Vav Kei in sé. Ogni materiale vivente porta questi 5 o 10 sfirot. Durante il periodo in cui vivevo in Russia, avevo un compagno che era un grande professore e un giorno mi portò con la macchina all'Università di Mosca, un meraviglioso edificio dai tempi di Stalin. Lui era impressionato dall'architettura perché quella era cultura e per lui la cultura era decisiva. Era completamente sostenuto da questo bellissimo edificio. In quei giorni non sapevo nulla di Kabbalah. E ho visto un topolino sulla scala e gli ho detto: guarda quel topolino, ha più valore dell'edificio perché è vivo. Non ho ancora finito con la rivelazione che ho ricevuto ieri, è ancora un preludio. Ti sto dicendo qualcosa che è utile per ogni giorno. Non voglio che tu impari teorie. La Kabbalah, lo spirituale, è qualcosa che devi sperimentare e non solo parlare di come sia la struttura. C'è un detto: il miglior cavaliere è sempre sui suoi piedi. Ogni cosa consiste di 10, abbiamo detto. Keter, Kokhma, Binah, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod e Malkut. Keter è il punto superiore dello Yud. Kokhma è lo Yud, Binah è la prima Ei, Zerampin è il Vav, Malkut è la seconda Ei. Ogni sfira ha lo stesso ordine. Abbiamo già detto, in ogni cellula di un topo, per esempio, puoi trovare il creatore. Il creatore significa le qualità di questi quattro stadi. Lo puoi trovare anche nelle rocce, solo che non possiamo vederlo. Se vediamo una roccia pensiamo che sia morta, ma è viva. Quando sei stato, per esempio, in vacanza per 2 settimane o più e torni a casa, quando entri in casa e senti le pietre come morte, e quando sei a casa le senti venire in vita. Anche con le piante, perché l'uomo attira tutto a se stesso e lo dà a tutte le altre creature. Perché questo è importante per me? Impiegare è molto importante. Nell'ultimo corso ti avevo detto che dobbiamo vivere nel presente, non pensare al passato o a qualsiasi colpa tu possa avere. Non avere alcun senso di colpa in nessun modo è un prodotto del tuo ego. Ti avevo detto di non tenerti in contatto con il tuo passato, ma quando viene, l'avevo applicato quello per più tardi. Perché poi era troppo per noi, non eravamo pronti. Avevo detto, se viene qualcosa dal tuo passato, se avevi peccato, fatto cose stupide o una persona ti aveva fatto del male, tuo padre, i tedeschi, non fissarti al passato o qualunque cosa ti viene in mente. Ma non lo cacci via, non ti è di aiuto, in nessun modo, tornerà a te con doppia forza. Quindi non sopprimerlo perché diventa più potente in quel modo. Quando viene nei tuoi pensieri, lascialo sobbollire. Non ho detto perché. Il potere dell'ora pulisce la parte del passato che è venuto nei tuoi pensieri. Il meccanismo che non ti avevo detto e senza il meccanismo è solo parlare per parlare. Possiamo spiegare ogni cosa con i 10 Sfirot, con il nome dell'Eterno, Yud Kei Vav Kei. Quando sperimentiamo in ogni situazione questi 10 Sfirot, viviamo nell'eternità. Quindi non sperimentiamo assolutamente alcun dolore. Ora stiamo andando a vedere le cose da un altro punto di vista. Ora stiamo parlando delle sfirot, te l'avevo detto anche io, non vivere nel futuro, che non sono, che sono solo aspettative e ti indeboliscono. La tua attenzione quindi nel futuro. C'è sempre miseria quando vivi nel passato o pensi troppo al futuro. Naturalmente ci sono pensieri, ma lasciali essere come un lampo di luce. Tutto ciò di cui avevo parlato veniva dalle 10 sfirot, ma poi non ho trovato le parole giuste e ora sto cercando alla fine della lezione, che il tempo della lezione è quasi passato. Anche il tempo è legato al cattivo principio. Potrei continuare tutta la notte. Disegno 8.3. Tutto è incluso, passato, presente e futuro. Keter, Chokhmah e Binah sono il passato. Kesed, Vura e Tiferet sono il presente, nel corpo è il gioco chiassoso, Guf. Netzach, Od, Yesod sono il futuro. Abbiamo messo Malkut anche nel futuro, ma più tardi vedremo che esiste, come se non ci fosse Malkut nell'Azilut. Per prima cosa devi costruire. Keter è il primo che viene nei tuoi Kelim. Costruisci il Keter con un compartimento e arriva la luce. Ogni cosa che arriva prima è il passato. Se sei nell'ora, hai già ricevuto i tuoi Kelim. Dobbiamo vivere nell'ora, il futuro non lo sperimenti. Da lì arrivano solo pochi flash. Kesed ha anche 10 Sfirot, Keter di Kesed, Chokhmah di Kesed, eccetera. Ogni cosa ha 10 in sé. Anche Gvura ha 10 Sfirot, Keter di Gvura, Chokhmah di Gvura, eccetera. Così anche Tiferet. Quando vivi nel presente, nell'ora, vivono nei tuoi tre Kelim, Gesed, Gvura e Tiferet. Formano il tuo corpo, la base di te. Supponi di vivere in Gesed, hai 10 Sfirot. E Keter di Gesed, Chokhmah di Gesed e Binah di Gesed. Li ottieni dal passato. Non è che sei nel passato, il passato è incorporato nel Kesed se provi a vivere completamente nel Kesed. In Kesed c'è Netzach di Kesed, Od di Kesed e Yesod di Kesed. Quindi il futuro è anche nel Kesed. Sei seduto anche nel futuro, ma non in un modo che del passato non ti importa, perché tutto è in te. Devi sperimentare tutti e 10. Nel Kesed hai un pezzo del passato, un pezzo dell'ora e un pezzo del futuro. Rimani nell'ora, ma ogni sfira ha 10 in sé. Quindi in ogni sfira c'è passato, presente e futuro. Fondamentalmente vivi nell'ora, ma nel particolare hai 10 di Kesed, 10 di Gvura e 10 di Tiferet. Quando vivi nell'ora, in ogni situazione hai passato e futuro. Non devi pensare al passato. Esso viene in te quando vivi nel tempo presente. Il tuo passato e verrà implacabile nell'esperienza di Kesed, Gvura e Tiferet. Puoi non ricevere nella parte inferiore, Netzach, Od e Yesod. Non è ad alta voce a tirare da sopra a qui sotto. Quello era il peccato di Adam, aveva tirato tutti i punti di forza da sopra a sotto. Vivi nell'ora, il futuro è anche presente nell'ora. Non pensare che ci sia un futuro. Il futuro esiste solo nella tua immaginazione. Esiste solo l'ora. Ecco perché abbiamo detto che il creatore vive solo nell'ora. Vivere solo nell'ora significa che vivi nel tuo Kesed, Gvura e Tiferet, e può essere che tu raggiunga solo una sfira dell'ora. Sappi che in ogni sfira c'è passato e ora e futuro.